Oggi che festa, il mondo mi sorride, il sole no più ombre non dà, e scalda il cuore non solo con parole, ma dà la gioia con grande intensità, con grande intensità. Mi sto vicino ed il tuo viso, con l'occhio acceso dall'amore, poi la tua mano coglie un fiore che sa di gioia e che non muterà, che non cambierà. Guarda l'uomo, legge il cuore, noi nell'anima fratelli, stretti uniti come stelle, con il cuore nella mano, per la vita che passiamo, questa gioia la vogliamo, e fratelli poi restiamo. Storia che cammina, questa storia che cammina, tu sorridi, non sei solo, mai più solo.